GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Alle 12.15 ancora un cordiale buongiorno da Lorenzo Garlinzoni e Armando Mucchino, voi con le notizie della TGR. In questo notiziario gli aggiornamenti sulla frana battutasi sull'autostrada 23 in territorio di Comune di Amaro, a seguire nuovi interventi della Regione a supporto delle aziende agricole alle prese con la crisi indotta dalla guerra in Ucraina, la società slovena che si appresta a pronunciarsi su un referendum sul raddoppio della centrale nucleare di Krško e un pesce d'aprile in arrivo da Monfalcone. Erano le 6 di questa mattina quando enormi massi sono franati dal costone soprastante sulle carreggiate dell'autostrada A23 in territorio del comune di Amaro. Per fortuna nessuna persona è rimasta coinvolta, autostrada però chiusa con inevitabili ripercussioni sul traffico. Si sta lavorando per la messa in sicurezza del tratto. Qual è la situazione? Ce lo dice Andrea Saul, che è sul posto. Un masso di roccia dolomia di oltre 6 metri cubi dal peso di oltre 15 tonnellate più altri detriti. Poteva essere una tragedia, invece la fortuna ha voluto che sull'autostrada in quel momento, poco dopo le 6 del mattino, non passasse davvero nessuno. La frana si è staccata sul lato a nord-ovest in comune di Amaro, anche se in realtà ci troviamo più vicini al comune di Carnia nel Canal del Ferro. Un masso, come dicevamo, imponente ha colpito la corsia sud della 23 fermandosi sul guardrail, con pezzi che però hanno invaso anche quella nord, oltrepassando la carreggiata e finendo praticamente nel tagliamento. Secondo i geologi è probabile che il masso si sia staccato non solo per le abbondanti piogge, fino a poco fa diluviava, ha ripreso da pochissimo proprio a piovere, ma anche a causa dell'instabilità dovuta alla forte scossa di terremoto avvertita nella zona nella notte di mercoledì scorso. Imponenti i lavori per mantenere l'autostrada A23 da Udine verso Tarvisio in sicurezza. Al momento è aperta soltanto in direzione nord dopo l'intervento per rimuovere il masso, operazione che è stata conclusa poco prima delle 10 di questa mattina. I tecnici però sono ancora al lavoro. Rimane chiusa, ricordiamo, il tratto tra Pontebba e Carnia in direzione verso sud. Da Amaro è tutto, la linea può tornare a voi. Grazie Andrea Saule. Ora la pagina del tempo, cielo coperto su tutta la regione, queste le temperature a Trieste, 18 gradi e mezzo, 15 gradi e mezzo a Udine e Gorizia, 15 a Pordenone, 12 gradi e mezzo a Tolmezzo, 10 gradi e mezzo a Tarvisio, 8 e 5 decimi a Forni di Sopra, 7 gradi e mezzo sul Piancavallo, 7 a Sappada, in quota sullo Zoncolan, 4 gradi e mezzo, 4 sul Lussari, tornando sulla costa a Grado e Lignano, 15 gradi e mezzo. Le previsioni a cura dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia, oggi cielo da nuvoloso a coperto, nelle prossime ore aumento delle precipitazioni anche su pianura costa con il passaggio del fronte, in seguito a rovesci temporali sparsi, ma con anche la possibilità di qualche schiarita. Sulla costa al mattino è soffiato vento scirocco moderato, in quota il vento da sud con raffiche forti. Aumentato il massimale per il sostegno alle imprese agroalimentari colpite dalla crisi di mercato provocata dalla guerra in Ucraina. La Giunta regionale ha aggiornato il programma anticrisi come precedentemente stabilito dalla Commissione europea. Sentiamo. Le imprese nei settori agricolo, forestale, della pesca e dell'acquacoltura, che rischiano di perdere liquidità finanziaria a causa delle difficoltà di mercato provocate dal conflitto russo-ucraino, avranno a disposizione aiuti più consistenti. Lo ha deciso la Giunta regionale, che ha provveduto ad aggiornare le condizioni per la concessione di sovvenzioni dirette e prestiti agevolati, come stabilito dalle ultime modifiche apportate dalla Commissione europea al quadro temporaneo sugli aiuti di Stato. È stato compreso un aumento di bilancio di 150 milioni di euro per un totale di 250 milioni a favore delle imprese che stanno effettuando progetti di sviluppo delle filiere agroalimentari. La delibera aggiorna le misure di aiuto alle quali si applicano le condizioni previste dal quadro temporaneo di aiuti Russia-Ucraina, ha spiegato l'assessore regionale alle risorse agroalimentari Stefano Zannier, che ha precisato che sono stati modificati alcuni criteri e modalità per la concessione di finanziamenti da parte del Fondo di rotazione in agricoltura per l'anticipazione di liquidità. Tra le modifiche, l'innalzamento dei massimali di aiuto fino a 280.000 euro per le imprese di produzione agricola, fino a 2.250.000 euro per le imprese di trasformazione e commercializzazione e da 35.000 a 140.000 euro per il cosiddetto salva stalle, cioè per le stalle con almeno 30 capi di bestiame. Udine, Eva Ciucci, GR Friuli Venezia Giulia. Sul contratto 2022-2024 della sanità è bene fare chiarezza a partire dai presunti 150 euro mensili di aumento. È quanto afferma Orietta Olivo, segretaria regionale della funzione pubblica della CGIL, critica nei confronti delle cifre fatte nei giorni scorsi da rappresentanti regionali dell'Ordine degli Infermieri e dei giudizi positivi espressi sull'ipotesi di rinnovo contrattuale. La percentuale di aumento fissata dal governo, scrive Olivo, è del 5,78%, poco più di un terzo rispetto al 16% che abbiamo già perso nel biennio 23 a causa dell'inizio dell'inflazione. Questo è già un grosso motivo per chiedere maggiori risorse, ma non basta. L'aumento del tabellare non è del 5,78% perché le risorse stanziate dal governo dovranno coprire anche altre voci contrattuali come l'aumento dell'indennità o altri strumenti di valorizzazione del personale. Detratte queste voci, chiude, l'incremento del salario base sarà sensibilmente inferiore. I più grossi pesci d'aprile, a quanto pare quest'anno, nuotano nel mare di Monfalcone. Da questa mattina sta girando infatti un falso lancio dell'agenzia ANSA in cui si riporta come il vice premier Salvini avrebbe candidato alle prossime elezioni europee Anna Maria Cisint, sindaca di Monfalcone, appunto. L'interessata da noi contattata smentisce però categoricamente. Altro fake di giornata, quello relativo a un presunto progetto di costruzione di un ascensore per raggiungere la sommità della Rocca nella città dei cantieri. Cambiamo argomento. Nella politica slovena è molto vivo il dibattito sulla crisi climatica e sulla riconversione delle produzioni di energia. I cittadini della vicina Repubblica saranno chiamati a decidere con un referendum se costruire un nuovo reattore nella centrale nucleare di Krško. La data della consultazione non è ancora stata decisa, dovrebbe protenersi già nel prossimo autunno. La Slovenia si prepara a raddoppiare la centrale nucleare di Krško. L'attuale reattore, voluto dal maresciallo Tito ed in uso dal 1981, ha una capacità di 696 megawatt, a cui si aggiungerebbero i circa 1100 megawatt del nuovo blocco. Gli sloveni entro l'anno decideranno se costruire il nuovo reattore con un referendum. A proporlo è stata l'opposizione di centrodestra. Il premier Robert Golob, che guida una coalizione di centrosinistra, ha però subito accettato la proposta. Leon Tiesel, fisico dell'istituto Josef Stefan, è un convinto assertore della tecnologia nucleare. In Slovenia oggi circa un terzo dell'energia che consumiamo è prodotta con il nucleare ed un altro terzo con il carbone. Se entro il 2030, come deciso, abbandoneremo il carbone per rimpiazzarlo, dovremo avere un altro reattore nucleare che produca energia pulita senza emissioni di anidride carbonica. Abbiamo poi bisogno del nucleare perché i consumi di energia nei prossimi anni aumenteranno molto. Gli ambientalisti sono invece scettici. Sara Kosirnik di Greenpeace Slovenia indica soprattutto i costi elevatissimi che richiederebbe la costruzione del secondo blocco della centrale. Siamo contrari perché tutta l'attenzione, il tempo e il denaro che vengono dedicati a questo progetto potrebbero essere impiegati da subito per avere fonti di energia pulita, solare ed eolica, disperse nel territorio. Il dibattito sul secondo blocco di Krško sta sviando l'attenzione da soluzioni che potremmo realizzare con meno spesa e subito. Inoltre, il nuovo reattore sarà operativo solo tra una quindicina d'anni. Nel frattempo, cosa faremo? Il primo reattore di Krško è stato costruito dalla statunitense Westinghouse. Nell'attività della centrale viene usata anche tecnologia prodotta dall'Ansaldo e da altre aziende italiane. Walter Scherck, TGR Friuli Venezia Giulia. Calcio, una sfida dal sapore quasi dello spareggio per l'Udinese di Mister Cioffi, che gioca questo pomeriggio alle ore 15 in trasferta contro il Sassuolo. I friulani devono riuscire a togliersi dalla scomoda posizione di classifica, soli 3 punti sopra la quota retrocessione. Sfida però non impossibile se si considera che il Sassuolo è uscito sconfitto da 5 delle ultime 6 partite di campionato. Era questa la nostra ultima notizia, ha collaborato in redazione Samantha Gon, per la parte tecnica Mauro Ciccarelli e Paolo Cassano. Da Lorenzo Gerlinzoni e Armando Mucchino, grazie per l'ascolto e l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.